Un fulmine, un battito. La luce, un attimo. È questa la felicità, il senso della vita, che illumina per un sigma la nostra esistenza e ci permette di progettare il percorso, imprimendone la mappa nel nostro cuore. E lo seguiremo, nonostante gli urti e gli ostacoli, durante il cammino. Tutto parla di te.